Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Marco Caprai, la rivincita del Sagrantino, di Lara Vecchio. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Voci d'impresa. Ospite di questa puntata un imprenditore coraggioso, fortunato perché con alle spalle una famiglia di imprenditori di successo, ma soprattutto coraggioso. Marco Caprai, famiglia marchigiana, da sempre sulla cresta dell'onda nel ramo dell'industria tessile e del cashmere. Marco è cresciuto con la mentalità dell'impresa di famiglia, ma ha scelto di dedicarsi a tutt'altra attività, e cioè alla viticoltura. Mio padre lavora nel campo del tessile, noi abbiamo un gruppo di industrie che producono arredamento per la casa, producono maglieria e producono cashmere, filati di cashmere. Quindi circa 40 anni fa mio padre decide di acquisire questa proprietà agricola in Montefalco e immediatamente, da buon imprenditore, percepisce che il valore del territorio di Montefalco non era tanto il produrre un vino magari decontestualizzato, ma produrre un vino che aveva le radici in quel territorio, e per cui inizia a produrre Sagrantino. Il rilancio del Sagrantino, meglio conosciuto come vino da messa, è stato la sua personalissima scommessa. Sentiamo la storia. All'epoca il Sagrantino era qualcosa di estremamente piccolo, ridotto, e quindi fece un grande impianto. Per l'epoca erano 5 ettari, erano una enormità, quando in tutto il territorio c'erano una decina di ettari, 12 sparsi tra centinaia di piccoli agricoltori. Questo fatto poi ha un po' anche segnato la mia carriera lavorativa, perché quando ho iniziato a dare una mano nell'impresa di famiglia e ho deciso che nell'impresa di famiglia avrei lavorato nel campo del vino, mi sono un po' guardato intorno che cosa fare. Eravamo alla fine degli anni 80, appena dopo il metanolo, l'anno tragico per il mondo del vino, per l'impresa che faceva vino, che poi però è stato la grande scossa che ha cambiato il destino del vino italiano, che ha cambiato il pensiero del vino italiano. Fino allora si pensava in Italia che bisognava fare tanto vino, non importava quanto buono, mentre il metanolo ci mette di fronte alla crisi dei consumi. Gli italiani fino allora bevevano oltre 90 litri pro capite, in Italia si scende a 70 litri pro capite, così come la distruzione di tutti i mercati mondiali, per cui era obbligatorio darsi una nuova strategia. Allora, a fronte di questo, io ho pensato che dovevamo darci una nuova strategia attraverso quelle che erano le nostre tradizioni, perché su quelle noi eravamo forti, eravamo diversi, eravamo unici rispetto al panorama internazionale. Tutti potevano produrre un grande Cabernet Sauvignon più o meno buono. Se noi invece eravamo abbastanza capaci da dimostrare che la nostra varietà poteva essere una varietà con un profilo qualitativo elevato, bene, diventavamo noi stessi il punto di riferimento. Difficile muovere i primi passi tra lo scetticismo generale e anche quello delle istituzioni, che in un primo tempo hanno cercato di intraprendere la strada della dissuasione, e invece le cose sono andate diversamente. Quindi ho cercato di lavorare con l'università, ho cercato di portare l'esperienza imprenditoriale della mia famiglia. La prima volta che sono andato all'Università di Perugia a raccontare questa cosa, mi hanno guardato un po' perplessi e mi hanno detto: perché buttare via soldi sul Sagrantino? Questa era la percezione che aveva l'università delle piccole varietà storiche italiane, mentre oggi abbiamo visto che le piccole varietà storiche italiane sicuramente non risolveranno i problemi del vino, i problemi dell'agricoltura e magari del Made in Italy, però sono un qualcosa che permette a chi guarda l'Italia di apprezzare la biodiversità, il rispetto delle tradizioni, la capacità di produrre cose eccezionali, cosa che non è successa nel resto del mondo. E la scommessa alla fine, con grande tenacia, è stata vinta, e soprattutto ha tracciato la strada per nuove iniziative come questa. Erano un po' tutte le varietà italiane non tenute in considerazione. Adesso non voglio dire che il Sagrantino è stato la prima, ma sicuramente è stato uno dei migliori casi di successo delle antiche varietà italiane riscoperte e trasformate in varietà uniche con attenzione su queste mondiale. Il Chianti non si vendeva perché era di Sangiovese, ma era in quanto Chianti, così lo stesso Nebbiolo si vendeva in quanto Barolo Barbaresco, ma non in quanto Nebbiolo. Quindi la riscoperta delle varietà autoctone è una riscoperta che non inizia solo col Sagrantino, ma inizia da un presupposto: provare a dare le stesse chance alle varietà italiane come all'epoca si iniziava a dare a quelle varietà internazionali come Chardonnay e Cabernet. Quindi impianti intensi, selezione, sistemi di allevamento rivolti al principio qualitativo, rese per ettaro e per ceppo basse, una buona conduzione agricola e poi una attenzione in cantina, fermentazioni corrette, l'utilizzo della barrique, l'utilizzo del legno nuovo rispetto a quelli che erano legni vecchi, esausti e anche puzzolenti. Questo è stato poi quel salto, quello scalino che ha fatto il vino italiano negli anni 90 e che ha determinato il successo del vino italiano nell'ultimo decennio nel mondo. Ricerca e innovazione dunque premiano. È successo all'azienda Caprai e sta succedendo sulla scia di questa esperienza a molte altre aziende. Se noi guardiamo i profili delle aziende che in questi anni hanno avuto maggior successo, sono quasi tutti profili che derivano da un'esperienza legata al mondo della ricerca, al mondo dell'innovazione, alla proposta, cioè al momento in cui ci siamo liberati dei vecchi codici che non erano più attuali, perché erano, per carità, attuali in momenti diversi. L'Italia veniva dalla guerra, l'agricoltura nel dopoguerra ha subito una grandissima erosione. Molti hanno abbandonato, le campagne si sono spopolate, il miraggio non era fare il contadino, era fare l'operaio. Oggi le cose, adesso non è che poi è il mondo quello perfetto, però in parte oggi questo gap culturale è stato recuperato e fare vino è fare un mestiere di tendenza, così come lavorare in campagna è comunque un lavoro che dà a chi fa questi mestieri non solo una soddisfazione economica, ma anche quel piacere di fare qualcosa di importante. Sentiamo allora come è maturato questo percorso intrapreso da Marco Caprai e come si è trasformata la sua vita dopo l'incontro con la sua grande passione, e cioè quella del vino. Ma guarda, ho iniziato ormai per passione 24 anni fa. Devo dire che è stata una cosa abbastanza naturale, iniziare a fare qualcosa in azienda come tantissimi di noi iniziano. Perché c'è da dare una mano, perché si lavora, perché si è condiviso tutto un certo tipo di percorso familiare. E condividendo quel tipo di percorso familiare nelle esperienze giornaliere, poi automaticamente ti trovi anche a conoscere magari una parte di quei problemi, una parte, o hai delle idee che possono essere utili in quell'impresa. Per cui ho iniziato a occuparmi del vino, non dico che nel futuro non mi occuperò dell'altro, perché credo che in un'impresa familiare c'è sempre bisogno poi alla fine anche delle esperienze di tutti, cercando poi normalmente di portare la propria capacità, la propria esperienza. Io ho avuto la fortuna di fare una grande esperienza nel mondo del vino, che credo che può essere utile nelle aziende di famiglia, così come cerco anche di portare la mia esperienza nel mondo associativo di Confagricoltura. Faccio anche il presidente di Confagricoltura Perugia, e portando in Confagricoltura Perugia quello che io credo sia una visione dell'agricoltura del futuro, di un'agricoltura rivolta ai mercati e non soltanto alle commodity. Imprenditore del vino significa conoscere e passare attraverso numerose fasi della produzione, significa sporcarsi le mani in campagna, significa conoscere il sacrificio della fatica. Ma guarda, imprenditore sicuramente si può esserlo, poi dipende con quanta passione si fa. Poi la campagna è bella, questo non credo che lo debba dire io, ormai siamo un po' tutti sicuri. In campagna si vive bene, c'è un approccio diverso anche ai problemi. Qualche volta un bicchiere di vino aiuta anche a sostenere tante scelte che uno va prendendo giorno per giorno. Io, e in questo credo che una parte aiuti anche l'aver vissuto non in funzione delle campagne di vendita, ma in funzione delle campagne di produzione, che è un po' diverso. Cioè, fare vino si fa una volta l'anno. Quindi tutto quello che si fa durante l'anno poi arriva in un percorso qualitativo nel bicchiere. E le occasioni per noi imprenditori del vino non sono molte. Non è sbagliare un prodotto, domani lo rifai, lo rimodelli, cambi un disegno, cambi una grafica, puoi avere più o meno successo nei mercati e magari puoi moltiplicare all'infinito quel prodotto. Nel mondo del vino la moltiplicazione all'infinito non esiste, se fai bene comunque hai dei numeri limitati e devi pensare in termini che non sono quelli soltanto del bilancio annuale, anche quello importante, ma anche di una crescita su periodi di tempo molto più lunghi. Quindi attraverso le vendemmie poi uno ha un diverso approccio anche con il tempo. Un'impresa di successo è costellata da momenti di sconforto e momenti di grande euforia. Nel caso di Marco Caprai è il caso di dire: il suo bicchiere è sempre mezzo pieno. Grande ottimismo. Ma guarda, il ricordo più bello io credo che è stato quello di aver raggiunto un traguardo che per molti produttori che sono nati nel mio periodo era quello di raggiungere i tre bicchieri, quindi punteggi importanti, il riconoscimento del lavoro, l'aver raggiunto quello che era l'obiettivo iniziale, portare il Sagrantino tra i grandi vini del nostro paese, tra le grandi varietà, riconoscere un lavoro che era quello di ricerca, di sperimentazione e poi l'aver trasformato anche l'economia di un territorio. Oggi il nostro territorio vive di vino. Siamo la maggiore industria, quella del vino, tra virgolette industria. A Montefalco quando io ho iniziato c'era un albergo, c'erano meno in tutto il territorio dei 5 comuni della denominazione meno di 150 posti letto. Oggi ci sono 2500 posti letto nel campo del vino all'epoca c'era circa 150-200 ettari in totale, ci sono circa 1800 ettari. Quindi avere così profondamente inciso nell'economia, nella vita, anche nei sogni di tante persone, perché poi fare vino in un territorio, utilizzare le denominazioni, significa anche coinvolgere quanti vivono in quel territorio, non magari fisicamente in quel momento, ma nel futuro. Anche in maniera indiretta e oggi penso che, adesso non so se mi malediranno, però penso di aver cambiato la vita del territorio. Termina qui questa puntata di Voci d'Impresa, vi abbiamo raccontato la storia di Marco Caprai, è tutto, un cordiale saluto da Lara Vecchio.